Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ve l'ho detto 100.000 volte che non voglio gente tra i coglioni! Coglioni! Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo. Parenzo. Senta una cosa, io sto andando in Slovenia per lavoro. Domani sera voglio andare a Mignotte. Africa, sveglia, vieni giù dalla pianta! Ok, allora tu vuoi che ti leghi, giusto? Sì, legami. E poi vorrei che mi picchiassi un po' e mi facessi un pompino. Ok, un pompino e ti picchio. No, no, mi picchi e poi mi fai il pompino. Se l'ordine non è quello giusto, non mi diverto. Legami, picchiami e fammi un pompino. Allora, se Woody Allen parla di pompini, è un grande, è un genio. Se lo fa Carmine alias Karma, è un miserabile. Avaremo vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Caro David, Salvini dice ai napoletani, sì. Conosciamoci. Senti, conosciamoci. Il mio appello è conosciamoci. Impariamo a stimarci, ad apprezzarci, ciascuno con le sue identità. L'Italia è bella perché è diversa. La risposta dalla voce di Napoli è questa. Come sapete, l'11 Salvini sarà a Napoli a fare un comizio che si annuncia blindatissimo, centri sociali mobilitati. Ti pare normale che il sindaco di Napoli De Magistris dica sto con i centri sociali? Ti pare una cosa normale? I centri sociali, legittimo, ma come legittimo? Minacciano ferro e fuoco, dicono che Salvini è razzista, xenofobo, che non può entrare a Napoli. Entrare a Napoli è una stupidaggine. Che sia razzista come dagli torto, che sia xenofobo come dagli torto, dopodiché deve parlare Salvini, non c'è di dubbio. Se poi si becca qualche piccolo fischietto, insomma, amico mio, non è fischietto, sai, perché tu sei come me un grande melomane, no? Un amante dell'opera. Beh, e insomma, quindi andavamo sempre insieme alle prime della Scala, ma non è vero, con i tuoi amici, con i nostri amici banchieri. Ma con non i è grandi... vero, ma non sono mai andato io. Ma io andavo invece a Via della Scala quando io stavo mai, a Milano. Io mai. Ecco, e ricordo i famosi logionisti, no? Quelli che stanno in logione. Il fischio all'opera è un elemento fondamentale. Un fischio non ha mai ucciso nessuno. Ma questi gli vogliono menare, Salvini. Menare mai, ma tu un dici bel una ripassata non fa male. Non ho mai detto nulla del genere. Sì, però lo pensi. Se gli danno una ripassata, non sei scontento. No, una ripassata di fischi, le mani addosso, mai a nessuno. Vogliono ingaggiare battaglia con la polizia fischio, e con Salvini. Qualche fischio, però il fischio non ha mai ucciso nessuno. Poi Salvini ne ha detto di cotte di crude contro i napoletani. Ma adesso scusami. Dice che si scusa in ginocchio per quei cori contro i napoletani. Perché vuole i voti? Perché vuole i voti? Certo, si scusa in ginocchio per i cori fatti contro Napoli, ti ricordi? E prenderà qualche fischio. Ma che non fischio, senti. Ce niente di male. Finalmente Matteo Salvini arriva a Napoli. Il voto. No, aspetta. No, è la luce. È l'onorevole. Onorevole, drangata. Ma quale onore? Che non usa punore? Gli onorevoli siamo noi, scusami. Salvini è un fedente in merda. E sei mai dispezzato il sud? Perché dici che il popolo napoletano si mette in rone. Dice che i napoletani sono fedeli, ma vengono a Napoli. Ma veramente lui ha ritrattato, cioè sta venendo per parlare proprio ma con noi. Ci, non lo fate venire che già siamo coperti come butter. Che vanno a fare? C'è sta giudini. Il cesso già lo teniamo. Certo che sono andati proprio a pizzicare. No, sentiamo. E com'è? Di tutti speciali potranno in campagna? Ah dai, siamo un nezzo con mais. Cioè, che c'entra in una festa a fare dei cori contro i napoletani? Ma quello è passato, adesso lui ha cambiato idea. Lui ha cambiato idea, io non ho cambiato idea verso Salvini. E voi dicete che io sono un fudente in merda. Io non mi scordo mai di quello che voi mi avete detto. Cioè, non dimentica. Non dimentica. Non può mai dimenticare. Pensano che il popolo è strunzo, senza sapere che il popolo è 100 volte più intelligente di loro. Se è napoletano si ma buono per te, che abbiamo fatto noi? È lui che puzza, non noi napoletani. Non donimmo manco ciò a munnezza. Salvini! Ciò bene, perché non donimmo ciò a munnezza. Venisse! Tu offendi noi, noi offendiamo te. Senti che puzza, c'è Matteo Salvini che vuole voti, ma va a fare buchi. A me i voti dei napoletani, non Napoli. Salvini, ti aspettiamo, ti prepariamo una bella pasta e patana che provola. A te ne poche provole giù, poi essere da fuoco. Un appello per votare Matteo Salvini? No. Vuole fare un appello per far votare Matteo Salvini? Acceritevi. Uccidetevi, ragazzi, questo è Napoli, non c'è niente da fare, eh? Si riconosce subito, si riconosce subito. Allora, vi pare normale che in due trasmissioni televisive, ben sì, due trasmissioni televisive, dove è stata invitata l'eurodeputato signora Comi Lara? Io sì, non ho nulla nei confronti della signora Comi, tutt'altro, la conosco da un sacco di tempo, però non sapevo che avesse commesso questo errore madornale, anche un po' offensivo nei confronti di tanti italiani, secondo me, di avere assunto per un anno la madre. Cioè ha assunto per un anno, sì, la madre al Parlamento Europeo. Perché si fidava della mamma, ha detto, no? Ma cosa aveva cazzo paura, c'entra? Non si poteva fare. Prima non si poteva fare. Secondo, certo, ha detto che ero giovane, a 26 anni, sono andato a Bruxelles, non sapevo niente. Allora mi sono fatto accompagnare dalla madre perché era brava a scrivere, non so, perché faceva l'insegnante o fa l'insegnante. Ragazzi, la spiegazione è ancora peggio, è ancora peggio di quello in che in Veneto fatto. Si dice, se peggio il tacon del buso. Sì, lo sappiamo, bravo, lo sappiamo. Allora ragazzi, ha fatto una cazzata memorabile. La cosa incredibile, adesso deve pagare 126.000 euro. Sì, rate, pagherà. A rate, si è, sì, ha detto che ha pagato una piccola parte, il resto a rate. Sì, vabbè, questo. Ma sono tanti soldi, 126.000. Sono, 120... che sono i conti. Sì, certo, sono tanti anni, evidentemente. No, è sì, un anno, poi non so cosa cazzo è questi 126.000, forse è il contributo che doveva dare la madre, più una sì, multa. Ecco, sì. Comunque, ragazzi, non lo poteva fare, non lo poteva fare. Spiegazione assurda, tra l'altro, dando la colpa al commercialista. La colpa, come dice, no, è stata una svista del commercialista che pensava che ci fosse un anno di deroga, ma ti rendi conto o no? Cioè, il commercialista. Sì, sì, ho visto tutto. Cioè, cosa allora, invitate in due trasmissioni televisive su una cosa importante, che sono i soldi nostri, i soldi degli italiani, i soldi di voi che state in macchina, che sono stati buttati dalla finestra, 126.000, perché non poteva fare una cosa per assumere, sì, la madre, una cosa gravissima, secondo me, gravissima. Cosa succede? Due trasmissioni, lì la notte ieri sera e oggi, Tagadà sulla 7. Ma ci fosse stata una domanda, ma dico, fatela una domanda, dico, una, scusi signora Comi, cosa magari ha da dire ti su è questo? Sfuggito, no? No, no, non ma ti assicuro, non l'ha fatta, non le hanno fatto nessuna mio domanda, manco una, cara signora, come si chiama, il signor Mannoni, dai, su. Lei pensa che sia vero che le donne che potrebbero veramente avere una forza dirompente se solo diciamo facessero squadra, come dice Livia Turco, anche diciamo su temi, no, per i quali c'è una sensibilità femminile maggiore, si dice sempre questo, io penso che sia vero, che sia giusto. Ma guardi, è vero sia in politica sia anche nei settori. La supercazzola di Mannoni, la supercazzola, manco una domanda sul fatto che ha pagato la madre, non poteva pagare la madre come assistente, vergogna. Panella pure oggi pomeriggio, vai su un altro tema così a cazzo. Quelli che vivono in povertà assoluta sono 4.598.000. Detti così i numeri significano poco, poi sono storie, sono persone come quella che abbiamo raccontato. E ahimè è un dato in crescita, perché in un momento di crisi il divario... Ah, a parlare di povertà, di povertà! Quello ci può anche stare. Dai, su, ma è una cosa... Ma io dico, va bene, uno può parlare di tutto, è giusto che sei invitato, ma hai truffato il Parlamento Europeo per 126.000 euro, altrimenti non ti avrebbero fatto questa multa. Non potevi prendere tua madre. Lei sta pagando adesso, ma volete farle una domanda o no? Non è che parla di povertà in generale. Dico, ma guarda, una roba incredibile. Io la trovo incredibile. Ma passiamo a Sgarbone, vai. Vai con Sgarbi, vai con Sgarbi. Contro i 5 Stelle, vai. Sullo stadio della Roma ancora. Strega grattacieli di ladri, speculatori e selvaggi. Il loro stadio di merda, quello voluto da quell'incapace di Grillo, era uno stadio di ladri, di delinquenti, con tre campanili, con tre grattacieli. Cioè non capiscono un cazzo, i 5 Stelle sono ignoranti come le cazzo. Ma tu pensi... Perché? Perché dice comunque. Perché comunque c'è una speculazione. Ma non li vogliono fare i grattacieli 5 Stelle? In sì, realtà. Io poi sono fissato su questo fatto dei grattacieli. No, lui è fissato con i grattacieli. I 5 Stelle non li vogliono fare, sì, però i grattacieli. Sì, però, bisogna essere sinceri, bisogna essere sì, c'è chiari, no? Non c'è il problema è che non ci sono le opere pubbliche. Ma è un tema troppo complesso. Sentiamo ancora Sgarbi, dai. Hai mai parlato tu in un'altra episodio di Masaccio? Mai no, ma ne parli sempre di questa merda, certo. Inutile, parli solo di merda, certo. Sei merdoso come loro, ma sei pieno di merda. Ma quello certamente fai. Poi il problema sono è che capace se di fare tu... quello. Era Sgarbi che parlava con Paragone e diceva sempre a parlare di queste Masaccio? Di queste merda dei 5 Stelle. Hai mai parlato di Masaccio? Ma perché Masaccio? Senti questo paragone con le puttane, Berlusconi che paga i soldi suoi. Sentiamo. Non ti rendi conto dell'inchiesta su Berlusconi a ritornarci? Che cos'è? Che con i soldi suoi ha pagato le puttane sue. E dov'è il reato? È il quinto processo, Rubi Ter, Rubi Quater, ma dove cazzo è il reato? Scusa, questi devono cosa. Tornare a casa. Contro i magistrati, ancora un PM non deve rompere il cazzo, senti. Pubblico ministero fa delle indagini. Il ministero non poi... deve rompere il cazzo con inchieste del scusa, cazzo, ma non c'è su niente. Cioè, deve fare il suo lavoro. Non posso pagare uno che rompe i coglioni agli innocenti. Ma non è... Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. Per favore, mettiti le cuffie che non ho intenzione di sentire questo Cruciani che è un deficiente. Sei senza fare un cazzo e non sai cosa fare? La Zanzara devi ascoltare. Miserabili. Allora, Sgarbi è tornato ieri sera a Matrix a parlare di questa cosa della pensione, eh? Cioè, ma devo dire la verità, che poi rispetto a quelli che dicono no, è ingiusto, però noi li pigliamo lo stessi, però certo è sbagliato pigliare tutti questi soldi no, di vitalizio e di pensione. No, lui ha fatto benissimo a rivendicare. Ma non so se ha fatto benissimo, comunque lui rivendica la pensione che prende. Dice non mi rompete il cazzo, ci sono le leggi che hanno deciso questo, e io me li merito, come ha detto da noi, eccetera, eccetera. Non si può cancellare nulla, io li do ai miei figli. Cioè non è uno di quelli che dice... Per me è sbagliata, andrebbero cancellati domani mattina. Però non è uno di quelli che dice no, io li prendo, però certo non li dovrei prendere. Sì, non è un ipocrita. Però certo è sbagliato, siamo privilegiati. No, lui se ne fotte e dice sì, me li merito 9.000 euro di vitalizio, che poi sono poco meno di 9.000, 8.008, senti. Io ho fatto 5 anni di Parlamento europeo, 20 di Parlamento italiano e ovviamente una pensione che sono 8.800 euro lordi, che sono 4.500-5.000. Non capisco cosa sia strano. Chiunque ha una pensione. Beh, chiunque ha una pensione, sì. E non tutti hanno una pensione con queste cifre qua, caro Vittorio. Non tutti hanno una pensione con dei contributi che avete deciso voi, che vi siete autoattribuiti. Sì. Ora hanno cambiato però in parte, beh, no? Come in sai. Parte, piccolissima beh, no, parte. Diciamolo dai. Perché altrimenti. Ma vabbè, vabbè. Comunque il quotidiano aspetta, libero. Aspetta. Quotidiano aspetta, libero. Adesso vengo da te, aspetta. Vedrai libero adesso cosa fatto. Certo, nel caso dei parlamentari c'è una regola che è stata corretta, ma non è che tu puoi dire quello che è stato deve essere cancellato. È stato, quando mi diranno non ce l'ha più, me la caverò lo stesso. Io ho detto anche noi fummo la casta, voi siete teste di cazzo. È una frase... Noi fummo la casta, voi siete teste di cazzo. Ovviamente indirizzate ai grillini. Che volete dire sul Libero? Non ho capito. No, Quotidiano Libero, le grandi inchieste del Quotidiano Libero online. Foto della moglie di Bonolis. Già qua, vabbè, davanti a un bancomat. Quanto preleva dal bancomat la moglie di Bonolis. Punto. Boom! Il video che la travolge. Lo apri e scopri che ha prelevato 30 euro. Cioè, ma ragazzi, ma che roba è? No, vabbè, non è quello, è che lei ha detto storia, che cosa ci faccio capito, con 30 ma euro. Ma che vuol dire? Storia Bruganelli, la gaffa al banco della moglie di Bonolis. Chi ci faccio con 30 euro? Ma che vuol dire? Ma potrà prelevare quello che le pare, no, dal banco. Ma messo così, se uno lo apre e dice quanto preleva dal banco la moglie di Bonolis, boom, il video che la travolge. Ma chi travolge? Ma cos'è che travolge? Ma travolge cosa? Yeah. Allora, Nico da Monza, vai Nico. Ciao, buonasera, complimenti per vai, la trasmissione. Vai, dimmi, non ce ne frega grazie, niente. Molte cari, grazie. Una domanda molte, per non ce ne frega una niente. Parento, dimmi. Un po' si sembra che si chiama. Sì. Ti volevo chiedere, se avevo sentito tempo addietro che Maometto si era sposato con una bambina di 8 ore. No, cominciamo con queste stupidaggini. No, ti voglio dire, se secondo te è pedofilo questo o meno, però lasciamo ancora perdere. Questa storia. Che vuol dire lasciamo perdere? No? Ecco, ancora questa prima stupidaggine. Prima lo dici e poi dici lasciamo però, perdere. Ecco, no, voglio dire questa cosa a te, nel senso, secondo te ci vorrebbe la reciprocità delle chiese, cioè se questi vengono ad aprire qua le porte, assolutamente ha ragione su questo, ha ragione. Sì, ma posso certo, aprire ma una cosa in Arabia Saudita, ma no. Certo, ma no. Che vuol dire però questo? È evidente, ma scusa, noi siamo più civili. Invece, no, ma Parenzo, cazzo, l'Arabia Saudita è una teocrazia, no. Come lei sa, scusami, ed è un paese Parenzo. Con il quale l'Europa Parenzo, e l'Italia Parenzo. Fa un sacco di affari. Ma che volevi dire? Non ho capito, che volevi dire? Non ho capito. È ovvio che dovrebbe essere così la reciprocità, ma noi siamo più civili. Punto e basta. Punto e basta, lo dico io, non lei. Non posso venire a rompere i coglioni qua. Ma che c'è? Ma non è che siccome loro non hanno lo stato di diritto dobbiamo arretrare anche noi nel nostro sistema? Ma vabbè, un cazzo però, ma che vuol dire? Ma non è più avanti, sto ricordando una cosa banale, le sto ricordando. Sentiamo. Tu che sei più avanti, ti voglio fare una domanda. Non è più avanti, è lei che è indietro. Io sono normale, è lei che è indietro. Tu che sei più avanti sulla Bibbia. Ma cosa ne pensi della Bibbia? È un libro normale. Mamma, che ce ne frega a noi, amico mio. Un libro normale, ma che vuol dire libro normale? Lei non è normale, io penso che lei non sia normale. La Bibbia non lo so. La cosa certa è che lei non è normale. Su questo non ho dubbio alcuno. Sei un ignorante. Sì, vabbè. Lei non è normale. Dalla tua parte. Ma che stai dicendo? Ma se tu hai mai letto la Bibbia? Ma chi se ne frega? Ma cosa mi chiede? Non rompete i coglioni. Ma scusa, chi? Non rompete i coglioni cosa? Cosa? Ma siete due stronzi, dai. Ah, dai. Noi. Sì, tu intervieni, fai un intervento assurdo senza le cavo né coda, saremo noi gli stronzi. No, non ti, ma però se non mi fate parlare... Ma hai avuto modo di parlare! Sentiamo la Bibbia. Sentiamo ma hai chiedere, le pigne nel cervello, questo è il punto. Sentiamo la Bibbia, una domanda sulla Bibbia. Eccoci, due cose. Una. Allora, me lo scrivo, guarda, me lo scrivo. Reciprocità. Benissimo. E Parenzo cosa ne pensa della Bibbia? Ma chi se ne frega? Ma non siamo a un convegno cosa qua. Cosa vuol dire cosa penso della Bibbia? Tu la leggi la Bibbia o no? Tu vai. Fate bravi ragazzi. Ma tu vai a messa o no? No, io non vado a messa, non mi frego un cacchio della messa. E perché ce l'hai con Maometto? Perché ce l'hai con Maometto? Ma cosa vale da me? Io non so mica con Maometto. È che se loro vengono qua e fanno quello che vogliono, ma cosa fanno quello che vogliono? Potremmo andare in Arabia ad aprire una chiesa, diciamo, ad aprire una chiesa in Marocco. Cosa c'è in Marocco? Non c'è un caso, oppure dall'altra parte. Dove? Dall'altra parte islami. Dove? Tu non puoi fare niente, non puoi fare niente perché sono ancora vivono nel Medioevo. Non puoi fare niente. In Marocco è pieno di gay, ti segnalo, Nico. C'è un grande turismo omosessuale in Marocco. Vabbè, per voi trovate campo per i vostri. Che ti dico? Ma chi l'ha detto? Ma no, ci va? Però, ma io non sono mai andato a prendere il culo in Marocco. No, ma che dici? No, vabbè. Okay, comunque, possiamo. Però ti voglio dire. No, scusami, parlando seriamente. Ma non sai che dire, questo è il punto. Ma possiamo dire a questo signore che in Marocco ci sono delle chiese? Lo possiamo informare un attimo alle 18:53? Vabbè, io voglio andare da Alberto, però. Voglio andare da Alberto. Non siete mai stati da nessuna parte. Nico, ma da nessuna parte, in Marocco, in uno straordinario. Io dico, ti abbraccio forte perché, evidentemente, sei una persona sola. No, è una sola, no, è malato. Alberto da Milano, vai, Alberto. È un disturbato. Ciao, ragazzi. Dimmi, Alberto. Allora, innanzitutto, grazie. Perché sto giro ho aspettato pochissimo, un quarto d'ora. Dai, forza, dai. Allora, io volevo proporre le ronde. Le ronde per che cosa? Per distruggere le macchine di quelli che buttano le robe fuori dal finestrino. io vado al lavoro in macchina tutti i giorni da Milano e non avete idea di quanta gente in civile io vedo buttare fuori sigarette. Vecchia questione. Io propongo ronde e impunità per quelli che fanno le ronde. Però Alberto, va benissimo, per carità, è una cosa brutta, però perché ci dovrebbe interessare alle 18:54 e 28 questa roba qui della gente che butta la roba fuori dal finestrino? Una cosa che c'è da quando esistono le macchine, da quando esistono le autovetture, cioè ma la dagli novità anni 50. Che propongo io, qual è la novità per i rondisti? L'impunità. La novità per quelli che fanno le ronde. Ma io l'impunità per il tuo cervello ci vorrebbe, cioè, questo ma è il punto. Anche se vuoi. C'è l'impunità per il tuo cervello. Marina da Genova, dai Marina, vai. Vai Marina. Pronto? Dimmi cara, dimmi. Allora, io ho parlato con la persona prima, con sì, la tua. Sì, sì, non so con chi hai parlato, non mi interessa, dimmi. Niente, io volevo tu non parlare hai niente da dire. Parenzo. Non hai niente da dire, secondo me. No, no, io da dire parlavo riguardo agli zingari. Che vuoi dire sugli zingari? Sì. Niente, io volevo dire al signor Parenzo eccoci qua, che forse non è. C'è un audio comunque, non so. Ma cosa audio? Quale sento audio? Sento un audio nel mio telefono, sento. No, è la sua testa, è un ronzio che lei sente nella sua testa, signora. È un ronzio suo in testa che sente, è normale. Dici nel cervello, quando, dici. Quando uno è un disturbato sente un ronzio in testa, è normale, guardi signora. Non si spaventi, non si spaventi. Fermo lì. Come? No, dico, quando come? Uno è disturbato, stare, dice Parenzo. Dice Parenzo, un quando uno è disturbato. Se no? Lo sente un fischio in testa, no? È chiaro segno di una persona disturbata. Lo sa con chi sta parlando? Hai capito? Vabbè, poi dopo ci racconta. Va dopo bene. Allora, con calma. Io volevo dire al signor Parenzo. Sì, sì, intanto dica. Lasciativo Parenzo e alla defecazione non ci penso. Ehi, un top assoluto. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presento La Zanzara. Semplicissimo. Se volete prenotarvi per un'orgia con Carmine da Roma e Cruciani, con la possibilità di prenderlo nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete prenotarvi per un'orgia con Parenzo, con la certezza che Parenzo lo prenda nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al Anal Top. Pronto? Risponde la segreteria telefonica di Ruggero DC. In questo momento non posso rispondere perché sto a Mignotte. Se sei Gianluca, vattela a pian del culo. Se sei mia moglie, vattela a pian del culo. Se sei una mignotta, richiamami. Papà? Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo. Gianluca, guarda, Gianluca. Andiamo a sentire la grande rissa Lillo, Fatto Quotidiano, Rondolino. Sì. Visto la gabbia ieri. Senti. La gabbia, certo. Io penso che Fabrizio Rondolino, quando parla in televisione, parla pensando a Matteo Renzi che lo guarda e non ai telespettatori. Quindi il suo obiettivo lo ha raggiunto. Matteo sarà contento. E tu a chi parli? Ti invece tu pensi di fare tuo così? Posto, Fabrizio. No, però invece immagino che Grillo sarà contento di quello che stai dicendo. Ma di che state parlando? Ti renderesti conto ma dell'assurdità siete, delle tue affermazioni? Hai detto che tutti gli italiani della Casaleggio associati a SRL e delle peggiori procure d'Italia e viene a discutere di me ogni volta che siete in televisione. Hai detto delle cose che se le dicessi per strada ti inseguirebbero, non so, la Casaleggio associati era anche un vostro socio. Ti interessa soltanto il giudizio Marco, di chi tira lo stipendio, lo hai guadagnato zero. Stasera, bravo perché Fabrizio. Il lausorgan della Casaleggio associati allora, SRL non ha alcuna credibilità, non è un giornale, ai telespettatori per un istante è non ha Matteo Renzi che ti ha ascoltato, Rondolino, alle dipendenze di una società di marketing avuto, digitale e di un mega evasore fiscale. Adesso possiamo passare Grillo. Invece a parlare dei telespettatori che vorrebbero sapere qualcosa di questa inchiesta. Allora, no, ma sbaglio, signor Rondolino ha detto che Grillo è un mega evasore fiscale e pluriomicida. Mi sembra di aver sentito così, sì, mi sembra di aver mega evasore così. Fiscale, non lo so, non credo che sia che risulti. Cioè, mega evasore fiscale e pluriomicida, no, cioè ha una condanna per omicidio colposo, non pluriomicida. Pluri forse. Ma è incredibile. Il tuo amico Rondolino. Sì, certo. Signor Rondolino, come lotta. Come lotta! Lotta.

anche lei è vivo, capito? Con un fascino, con un carisma che non riescono a fare un cazzo in questo paese. Avvocato. Perché? Eccolo perché qua. Non hanno avuto il libretto nero. Ma cosa cazzo è sto libretto nero? Capito qual è il discorso? Ma mio padre fa l'avvocato, non ha nessun libretto nero. E tu sai benissimo di cosa parlo. Basta, chiamo l'avvocato, avvocato Trucco. Tu hai avuto il libretto nero con i numeri da chiamare. Lei ha avuto una tara nel cervello. Chiamo l'avvocato in diretta, 19:24. Lo sto chiamando, lo sto chiamando. Nano, perfetto. Devi andare a fortunato casa, Parenzo. Lascia il posto alle persone capaci. Ma perché ti sei fissato con questa cosa, Nicola? Primo, scusami. Primo. Ascolta, io mi fisso con quel cazzo che voglio. Ho telefonato per dirti quello che pensavo. Sì. Cruciani, non ti piace? Sì. Sono cazzi tuoi. Sì, Nicola. Si è sfogato adesso. Cruciani, non ti piace? Ti ma difendilo. Ti sei sfogato. Ma difendilo sto cazzo di cane che hai 19, vicino. Come ma detto? Difendilo. Cane, 19:27. Questo, senza di te, senza il tuo programma. Non è un cazzo. Ti sei sfogato o no? No, ti sei sfogato. Tre reati commessi. Senza nessun valore, capisci? Ma questo chi lo decide? Tu lo decidi? Chi lo decide? Tu? Chi lo decide? Il pubblico tu? Chi lo decide? Io voglio una risposta alla mia domanda. Ma non c'è nessuna domanda. Il libretto nero ce l'hai in testa te. L'agenda con i numeri di telefono da chiamare. Perché deve reiterare? Il primo numero che ha fatto. Di quale politico? Il numero del suo analista. Il numero del suo analista bisogna fare. Il numero del suo analista. Lavora in un'azienda privata, imbecille. Incapace. 19:28. Dunque sono un reato. Ciao Nico, ciao. Fausto da Roma, dai. Mi lasci il numero di questo qua, per cortesia? Me lo puoi lasciare? Sì, grazie. Fausto da Roma, dai. Già allertato tutto l'ufficio legale. Fausto tutto. Da Roma, vai. Tutto. Ciao, ciao Giuseppe, ciao. Dimmi, ciao. Senti, io ti voglio dire, sono molto d'accordo con l'ascoltatore che ha telefonato adesso, veramente molto d'accordo. Sì, però anch'io. Passiamo ad altro, perché volevo parlare di un'altra cosa. Ma su che cosa sei d'accordo? Ragazzi, mettiamo in chiaro una cosa. Se c'è una persona che non è raccomandata in questo paese, male, si grazie. Chiama David Parenzo. No, no, no. Cioè, potrà avere pure tutti i difetti del mondo come ce li ho io, ma sì, vi assicuro no. Che non è che stiamo a... Cioè, la realtà è questa. No, non perché, no, non perché sia raccomandato, io non lo so, non è questo. Quindi vabbè, non ma che permetto. Vuoi, Fausto? Tu perché hai chiamato? Sì. Spiegami. Perché si sente solo. Perché, insomma, è incapace. Perché si sente solo. Ho chiamato per un altro motivo. Per la solitudine, perché, Giuseppe, dobbiamo fare per la solitudine qualcosa che lo ha. Per Susanna. Sì, bisogna fare qualcosa per lei, secondo me, perché lei è solo. Dobbiamo, no, per bisogna fare qualcosa diciamo, per lei. Devi aiutare a noi, sì. Sostenitori. Sì, sicuro. Della sua solitudine. Chiamiamo queste donne. Un ONG specializzata in solitudine per lei. Diciamo ad aiutarla a pagare la multa. La multa. 3.300 euro. È una battaglia che dobbiamo fare. Una battaglia che dobbiamo fare anche per mettere lei nella condizione di vivere serenamente. Capito? Dai, ma sei una mosca, dai. Capito. Vabbè, Fausto, è una battaglia importante. Certamente è quella. Esatto. Quella sulla. Avvocato, sì, ciao. Sì, che. Quella. Aspetta, però Trucco, parlaci in privato. Scusami, ti metto un attimo in diretta, avvocato, perché c'è una. Sì, sei in diretta. C'è una querela da fare perché alle 19:27 ha chiamato uno dicendo che sono un raccomandato e un cane. Puoi procedere per cortesia, avvocato Trucco? Immediatamente. Grazie. Immediatamente. Grazie molte. Mandiamo tutti gli. Esatto, grazie, avvocato. Grazie. Ciao, saluti. Ciao, dopo. Saluti, grazie. Ciao. Ecco. Perfetto. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Si avvicina la primavera e cominciano ad arrivare i rom con i loro camper. Poveracci, non sanno che il cacciatore li sta aspettando al varco con le sue armi affilate. Secondo me questo qua non esiste, Parenzo, questo qua, non esiste. Probabile. Questo, non esiste, probabile, probabile. Non esiste questo mostro che dice di essere un cacciatore di rom. Speriamo. I campi rom ci devono stare, non ci devono stare. Se vogliono rimanere in Italia, lavorano, pagano affitto, pagano l'acqua, pagano luce, pagano tutto, come paghiamo tutto quanto noi. La questione della vita, la questione della vita. Si vogliono rimanere qui, se no se ne vanno a casa loro, se ne vanno in Romania, ma siccome, come ti ho detto, non ci vanno in Romania, è uno schifo, qui non vi paghiamo più un cazzo, niente, capito? A casa vostra, fatele pagare dai compagni vostra, no che noi ci siamo dati a sapere i cazzi vostra. Andate a fanculo voi e tutti i bonisti del cazzo che ci stanno qui in Italia. Questo è il mitico Romano. Insomma, manco come si chiama questo qua. Ogni tanto manda dei messaggi fantastici. Romano, quello che scandisce. Ma non Davide Romano. No, no, è il Romano, quello verace che ogni tanto ci chiama, che ci attacca, soprattutto te, Parenzo di Massacro. Ma che c'è un altro di questo qua? Sentiamo, sentiamo. Ma dico, ma tu te rendi conto quello che cazzo tocca sentire? Ma tu te rendi conto quello che cazzo tocca sentire? Qui questi possono fare quello che cazzo gli pare. E quelli perché hanno chiuso quel cancelletto e poi si sono messi a ride e l'hanno ripreso per fare, per creare una prova, l'hanno sospesi. Ma tu te rendi conto in che cazzo di merda di paese vivemo? Ma l'anima degli mortacci loro! Ma tu te rendi conto che non potevo più parlare? Ma tu te rendi conto quella merda di Area de Parenzo, come dice? Che cazzo di... Ma perché non te li porti nella tua civilissima Tel Aviv, l'anima degli mortacci tua? Ma vattene a fanculo in Israele invece di romper cazzo qui. Vattene a fanculo a Parenzo. Ma a me fa impazzire il modo in cui scandisce le parolacce. Ti piace, vattene a ma così proprio. Poi è un argomento anche nuovo quello che questo simpatico signore ha sollevato poco fa, no? Cioè quale? Quello di portarle a casa mia, di portarle lì. È un argomento che non ho mai sentito, diciamo. Ah, mi riferiscono che Sgarbone, sì. Mi riferiscono che Sgarbone ha deciso di fare un grande passo dopo le polemiche che sono arrivate qui dalla Zanzara, dopo aver detto che prende 9.000 euro di vitalizio, che me li merito tutti, eccetera, eccetera, dice, sostiene che vuole donare questo vitalizio al patrimonio, cioè addirittura quello che ha già preso, cioè vuole dare, Sgarbone, forse stampa una cazzata, 60.000 euro netti all'anno per 10 anni, fanno 600.000 euro, quello che ha incassato finora, lo vuole dare al patrimonio artistico italiano e vuole iniziare subito con il restauro di un capolavoro di Donatello scoperto a Fabriano, che sarà esposto al Bino. Cioè, attenzione, questa è una cosa importante, tutto quello che ha incassato finora dal vitalizio lo Sgarbone. Per me sta a fare una cazzata, ripensaci, Vito. Ma che cazzo, beh, generoso sarebbe. Che, sì, ho capito, ma quello che è stato, oh, cioè non è che uno può restituire il passato, può decidere da adesso in poi, altrimenti quello va in rovina. Come gli dai i soldi ai figli? Scusa, quei soldi là servono ai figli di Sgarbone? Cioè, come arrivano i soldi ai figli? No, ma adesso? Certo, vabbè, adesso. Comunque, vuole restituire tutto quello che ha incassato finora, ripeto, dandolo al patrimonio artistico italiano. Ce l'abbiamo? Vabbè. Allora, eravamo con Fausto da Roma, mi sembra, che vorrebbe pagare la multa di Susanna. Lui te la vuoi pagare a te, 3.300 euro, sì. Fausto? Non ho capito. No, non la voglio pagare io. Ma tu, Giuseppe, ci devi mettere uno strumento a disposizione dove io e altri come me possiamo versare già domani i nostri 10, 20 euro, ognuno quello che può. Ragazzi, se ecco, la volete ecco aiutare, ho capito, adesso aspettiamo, aspettiamo, certo, la vergogna è che una prostituta che chiaramente si comporta da prostituta, cioè va mezza nuda e mezza alla strada, appunto. Ci sono migliaia di, ho capito, ma ci sono migliaia. Io trovo incredibile che qualcuno si proponga di fare la colletta per la prostituta. Ma ha ragione Fausto. E poi invece di fronte magari al migrante, guarda, bisognoso, ma che c'entra migrante? Al povero italiano, le collette per la prostituta, non prostituta che va in giro con la, che è simpatica, per carità, che va in giro con la bicicletta sulla Salaria, cioè, secondo me c'è qualcosa che non funziona, cioè, però meglio Susanna la prostituta, la colletta, piuttosto, no, che il migrante, dico, ma che con arriva tutta la gente, ma non il migrante, ma non è questione del migrante. Susanna lo fa con l'amore, detto, ma... Susanna, anche se lo fa di lavoro, ma ci mette l'amore, come ti posso garantire io che ci vado, molte ragazze che sì. io conosco e con cui vado ci mettono amore. Sì, aspetta, però abbassa la radio, Fausto, abbassa sì. la radio, ti glielo prego. Dai, no, ce l'ho spenta. Guarda, sto dentro la. Sto dentro la macchina tutto spento. Scusami Fausto, ma quante volte vai a Mignotte tu, tanto per capire? Una volta al mese, due volte al mese, così. Ma dove vai? Dove internet, per strada, ti apparti dietro un albero? No, no, no, ci stanno delle zone che io conosco. Delle zone che vuol dire? Gli appartamenti privati, delle zone? Che vuol dire delle zone? Diciamo delle zone, dei quartieri, come ti devo, delle strade, via. E dove ecco. consumi poi i tuoi rapporti occasionali? Allora, li consumo o in macchina o in un piccolo furgone. Ma è di chi è sto piccolo furgone? È il mio. È il tuo. Ci metto un materasso dentro e sto da paura. Parenzo, e sono al top, amico mio. Parenzo, che dici tu di questa pratica del signor Cosa Fausto da Roma? Che è un miserabile il signor Fausto? Ma molto. Il re dei miserabili. La cosa che mi auguro è che le ragazze con cui è stato non abbiano, come dire, il magnaccia, non siano... Sicuramente no, assolutamente. Ma che ne sai tu, Fausto? Che c'ha? Allora, questo è già un passo in avanti. Siccome io sono un galantuomo, no? Miserabile galantuomo, per cui al compleanno gli faccio il regalino. Diciamo, sono amiche, le rispetto molto. Amiche sono. Esatto. Amiche. E allora, amiche a pagamento, amicizia a pagamento. Non dico tutte, ma una di loro mi ha chiamato, mi ha detto: Gianni, guarda, non mi interessano i soldi. Si può avere il numero di questa? Senza soldi. Non ti preoccupare, che non è quello. Vieni. Benissimo. Non ho capito mai. Si può chiamare questa signorina? Non mi era mai successo. Si può chiamare questa signorina o no? Preferisci di no. Sì, vuole tenersela stretta. Ma guarda, Giuseppe, non ti direi una stronzata, cioè vi sento da anni, non ho mai chiamato, però siccome questo argomento mi tocca, mi ha toccato, io stasera sono rimasto chiuso dentro la macchina un'ora per aspettare. Comunque Fausto, guarda, amico mio, cosa. Io ti dico una cosa, tu sei uno dei puttanieri di questa trasmissione, uno che giustamente rivendica anche il ruolo di puttaniere, bisogna organizzare prima o poi la marcia di fronte a questa nuova ondata che per fortuna qualche tribunale stoppa. Perché ci hanno liberato, io mi sento libero, io ho goduto come non avevo mai goduto con donne normali con cui sono andato, non mi sono mancate. Questo è buono, Ma ho goduto e sono stato bene, più rilassato, ho avuto più godimento sessuale con loro. E ti dico questo perché ti senti, grazie per condividere con noi questa cosa. Perché di testa ti senti più libero. Bravo. Perché per una vita sono stato costretto. Giuseppe, guarda, senti questa che è importante. Io per una vita sono stato costretto a rimorchiare donne e a fingere perché. Non ero innamorato, ma a fingere solo per farmela dare. Ma cosa è diventata questa trasmissione? A recitare, a fare l'attore. Quello sì che è il miserabile. Un flusso di coscienza dei puttanieri. Sì, no, ma ha ragione. Io ti capisco. Hanno trovato l'interlocutore. No, ma ti capisco. Questo tuo stato d'animo. Vi capite tra di voi? No, capisco questo suo stato d'animo. Perché lì sono stato un vero miserabile. A fare l'attore solo per farmela dare, ma non ero né innamorato di niente. Un dramma vero. Mi ho preso veramente in giro. Però devo dire la verità, Fausto ha una, Fausto, come dire, sta confessando una cosa importante, una cosa fondamentale, soprattutto fa parte di quella larga schiera di puttanieri italiani che devono issare alta la bandiera del puttanesimo, la bandiera della frequentazione di prostituzione. E io mi metterò a capo di questo esercito, di questo protone di persone, assolutamente, il nuovo Romiti, per fermare pur non frequentando. Questo credo, pur non frequentando, mi metterò a capo di questo vastissimo plotone che deve fermare quest'ondata puritana di molti sindaci e polizie locali italiane che vogliono impedire alle persone, la sessualità di un Fausto, la libertà di Susanna di mantenere i figli facendo la prostituta, fottendosene. Vada in giro mezza nuda. E purtroppo deve fare la puttana, come vuoi che vada in giro, come una suora. Giuseppe, devi dire a Parenzo che è un rapporto totalmente libero. Io i 30 euro, i 25, i 20, quello che ho, sì, lo contratto con lei, con la ragazza. Siamo io e lei. Questo non basta. È che succede sempre così, eh? Cioè, ogni tanto c'è qualche sfruttamento. Guarda, vabbè, guarda, a me è stato. Te lo dice sempre come titolo così. Di merito il contratto. È stato sempre vabbè. Così. Vabbè, contratta, come tu non contratti, vai al mercato, non contratti tu. Ma ogni parliamo tanto? Di persone o di cose? Vabbè. Parliamo vabbè, di persone o di cose? È un dout des, le persone, no, certo. No, ma contratto solo perché delle volte mi capita di avere meno soldi. O magari quando ho qualcosa in più, io gli lascio la mancia. Anche la mancia, sì, come fosse un... Sì, certo, gli offro il succo di frutta, gli vado a prendere il caffè. Anche il caffè gli va a prendere. Ti dico l'ultima. È la comunità di Sant'Egidio questo signore. Con l'ultima ragazza, siccome c'aveva freddo a casa sua, non aveva riscaldato, gli ho regalato la mia termocoperta. Mamma mia, ma che gentile. Ma caspita, anche una marca mio, avercene di uomini così, ma complimenti. Ma assolutamente, io scusa. Per me, viva il puttaniere Fausto! Viva alla il puttaniere Fausto! Alla dillo di forte! Che tu chiami miserabili. Dillo che forte! Hanno un cuore grande, bravo, un cuore d'oro. Dillo forte! Anche con si sta ragazze. Ribaltando il mondo al contrario. Dillo Fausto! Sono un puttaniere e me ne vanto. Dillo forte! Sono un puttaniere e me ne vanto. E me ne vanto. Vabbè, se ciao piace Fausto, così, ciao, ciao. Se vi piace ciao, un mondo così. Mio, ti ciao. Amo. Forza, ciao, avanti, ciao. Avanti tutta. Ma, senti, facciamola sta cosa per Susanna. Pensate. Chiamami quando vuoi. Sì, adesso c'ho un mese di tempo. La ciao. Colletta per la prostituta, ciao. Quella è una cosa incredibile. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Allora ragazzi, prima di un collegamento particolare, avevo già pronta una signora, sì, caro Parenzo, una ragazza direi, altro che signora, una ragazza ancora informissima, ti voglio fare sentire però dalla viva voce dello Sgarbone la sua idea di rinunciare al vitalizio. Non solo rinunciare al vitalizio, ma restituire all'Italia, al paese, al bilancio pubblico, allo Stato, tramite il restauro, non so di quale opere architettoniche, di quale opere artistiche, tutto il vitalizio finora preso. Una cosa pazzesca. Un vitalizio che qualcuno ha detto, io stesso è andato ai miei figli, ma quello che è andato, torneranno indietro. E facendo capo al primo giorno, per un totale di circa 600.000 euro, andranno tutti per restauri del patrimonio artistico italiano abbandonato o terremotato, a partire da Donatello, che verrà esposto dopo il restauro, ad Urbino. Quindi chi vuol fare polemiche ha già finito. Metta lui i soldi per il patrimonio artistico e non rompe i coglioni a quelli che i soldi li hanno usati per il bene della nazione e per la salvezza dell'Italia. La grande iniziativa sgarbiana, ragazzi. È con noi Parenzo, la contessa Patrizia De Blanc. Buonasera, buonasera. Buonasera, ragazzi. Sono anche qua con mia figlia Giada. Ci siamo messe qua in vostra attesa. Mamma perché mia, mi siete troppo simpatici. Ciao a tutti voi. Ciao, grazie, Giada. Contessina, ciao, grazie. Giada. Mi seguo sempre. Mi siete simpaticissimi. Ciao, grazie, tesoro. Contessina, grazie. Ciao, ciao. Senti, Patrizia, ma in che luogo vi trovate in questo momento? In camera da letto, con quattro cani sul letto e io e Giada pure, perciò beh, amica mia, direi proprio una vita bruttissima, una vita grama, direi. No, ma perché? Una vita grama. Beh, ma sei, il letto, sai, non è mica sintomo di ricchezza o di cose. Stai a letto e basta. Beh, oh, il letto, però, certo, la casa intanto non è... Intanto porta rispetto per un personaggio cosa? Straordinario come ecco, la... Infatti, la, comincia a dirglielo a quel come, Parenzo. Ma certo, no, quel Cruciani, semmai. Come quella la contessa De Blanc, che è una persona di grande rispetto, ma di grande cultura. Ma chi ha detto niente? Scusa, ho detto e semplicemente che sta sul letto con quattro cani. Un ospite qualunque, no, perché assolutamente. È una contessa. No. Sì, ma io non me la tiro, ragazzi, guarda che io non me la tiro, a me no, non me ne frega so, proprio però. Niente, perché mia madre mi ha sempre insegnato che chi è non deve dimostrare niente a nessuno, perciò non devo dimostrare niente. No, ma assolutamente, no, infatti no, questi no. Quattro cani, che cani sono, scusa, quelli con cui ti intrattieni nel letto? Allora scusa. Sono due cani nudi cinesi. Cani nudi cinesi, scusa. Uno è Spitz, che è quello di Giada, sì, che gliel'ho regalato per farle dimenticare le pene d'amore. Sì. E beh, un altro è un tarocco, perché è un, diciamo, è un misto tra lo Spitz e il cane nudo, è uscito fuori pure. Nocciolina. Scusami un attimo. Sono accoppiati il cane nudo cinese e lo Spitz e hanno fatto un cane peloso e un cane senza pelo. Scusa, ma questi due cani nudi cinesi sono terribili, sono osceni. Come fai? No, ma perché? Ma sono qualcosa. Come sono osceni? Ma che stai a dire? Ma chi? I cani cinesi? Anche se sono brutti, l'amore che danno gli animali. Ma amica mia, i due cani nudi cinesi, ma che stava a male, visti? Bene, fate due cani cinesi nudi. È una roba agghiacciante. Ma come si fa? Se gli piace così, che devi fare? Tu, ma quanto costano sti cani? Scusami. Beh, non lo so, il costo non lo so, ricordati che l'amore non ha prezzo. No, ma costano un sacco di soldi, dai, su. Ma non più di tanto, come un cane normale, solo a me piaceva tanto il cane nudo, allora mia figlia, poi sai, lei ama tutti quelli pelosi, io quelli invece nudi, perciò a sto punto. Cioè, in generale, cioè tua figlia ama gli uomini pelosi e tu invece quelli un po' glabri. No, i cani. Dei cani. Ah, i cani. Se vuoi parlare, prendi questo, devi parlare qui dentro, perché sennò non ti sentono. Meglio di quelli depilati, cioè gli uomini, vedi, giustamente Giada sta dicendo gli uomini pelosi sono meglio di quelli depilati, dice, no? L'uomo vissuto, l'uomo deve essere uomo, poi c'è anche chi si depila per esigenza. Sì, non c'è dubbio, questa è un'altra cosa, però l'uomo vissuto vogliamo mettere tipo un berri. Sì, vabbè, dipende, l'uomo vissuto, se sembra uno scimmione, no, che è vissuto fino a un certo esatto, punto. Se il pelo gli esce fuori pure dalle cose. Ma che schifo, no, abbiamo avuto diventa mia. Una specie di scimmia, no. Una giusta peluria, diremmo. Voi come siete vissuti? Una normale peluria maschile, normale. Normale peluria. Va bene, bravo. No, però non sono glabro, capito? Aspetta che non si sente niente, Giada, parla tu, Patrizia. Cioè, nel senso che io non sono glabro, anche se ogni tanto mi dicono, perché non ti depili tutto? Perché non ti depili completamente? Però la depilazione totale è una cosa brutta. Schifo, dai, è un po' da porno star, no? Ecco, un po' da bravo. Nel porno, capito? Un sacco di persone si depilano, eccetera. Senti, ma io volevo capire, ma cara Patrizia, ma cosa pensi dei signori rom? Perché a Parenzo, per esempio, è molto amico dei rom, no, amico, è molto vicino alla comunità rom. Io sono contro le generalizzazioni, ad esempio, sono contro il fatto di considerare tutti i rom dei criminali. Quasi tutti ladri, che stai dicendo? Bisogna avere paura dei rom, ma ragazzi no, guarda, come in tutte le etnie ci sono quelli giusti, quelli sbagliati, quelli i rom, sai quello che c'hanno? C'hanno una pessima fama, perché molti continuano a delinquere, a rubare, a fare tutto, però c'è tutta una parte che non è così. Io per esempio ho aiutato, e qui Giada lo sa, una povera, lei era una zingara con quattro figli che dormiva per terra, gli ho trovato la casa, gli ho fatto le cose, e devo dire che non ho mai avuto una gratitudine maggiore di una persona così. Ma quando tu incroci una rom, per strada, che fai? Le do una mano, cioè lei mi vengono sempre a chiedere l'elemosina, gliela do sempre. Gliela dai sempre ai rom? Sempre, l'elemosina parlo, eh? Sì, l'elemosina, certo, per forza, che devi fare? Sì, comunque ragazzi, cioè... Che dice Giada, scusa Giada, dice? Che dice? Parla con loro, perché non che dice, che lo dice Giada? Che dice, che vuole? L'aria a tutte le persone che... varie etnie fanno del male, ecco. Vabbè, questo è normale. Ma questo è normale, che c'entra? Senti, ma tu la vedi questa invasione che c'è in Italia da parte degli extracomunitari? Cioè questa grande... La vedo, e ti voglio dire una cosa. Sì, noi dimmi, non eravamo un paese razzista, perché tutto eravamo, meno vedere me. Certo. Stiamo diventando, perché ce ne sono troppi. Certo. Quando diventi troppo, certo, a questo punto poi incominci, hai capito? Cominci anche a fare la lista, noi con De Blanco. Ma c'hai paura, li trovi ad ogni passo. Allora, io do sempre tutti quanti una moneta, no? Quando arriva la sera, dico ragazzi, ma voi siete troppi, perché cioè non è che è glielo dici proprio glielo dico, anche oggi glielo ho detto a questo tornavo, all'ultimo che ha beccato, ma chi siete è? Troppi, perché non è che uno a un certo punto esce la mattina con lo stipendio, ma l'hanno capito questi qua, parlano, cioè che era nigeriano, devo dire che qualcuno fa sì mamma aiuti, sai quelle cose così, allora uno li aiuta. Io penso che più di aiutare qualcuno lo aiuto, che io quando vado al bar e lui sta fuori dalla porta così gli pago il panino, il tè freddo, queste cose qua glielo lascio pagare. Ma com'è allora che fa questo qua quando incrocio ti come aiuti? Non parlano come noi, no? Perciò parlano una lingua un po' mista tra l'africano, l'inglese, queste cose qua. Tu aiutare me per come parlano? No, anche non fa spiritoso, sai come parlano? Una cosa mischiata, no? Ma comunque c'è l'invasione la vedi, proprio la percepisci. Beh, vede, dai ragazzi, dappertutto, ma dai, dappertutto, ma voi non ne accorgete. Ma c'è da avere paura, cioè le città sono sporche, sono più sporche. Però mica per via degli immigranti. Aspetta, torniamo tra un attimo, aspetta, con la contessa Patrizia De Blanc. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Quando vado a casa dei parenti ascolto sempre la Zanzara con mia nonna di quasi 90 anni e mi dice sempre la stessa cosa: sti due sono due porci. Sono un puttaniere e me ne vanto, e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. Bellissimo l'intervento dell'ascoltatore di prima, che ci ha raccontato la sua vita fatta di frequentazione di prostitute due volte al mese, un inno al fatto che ama la libertà, alla fine ama la libertà, è una vita triste di una persona ama sola, ama la frequentazione di prostitute. Io sono sicuro che in questa grande battaglia di libertà a favore della possibilità di andare a prostitute senza il pericolo di essere multati, di essere fotografati, di avere problemi con la famiglia, di avere problemi magari con la moglie o con l'amante o con la compagna o con la fidanzata, la contessa Patrizia De Blanc è al mio fianco. Io sono certo. Ma certamente sì. Oh, sono certo che la contessa De Blanc è a fianco di questa battaglia contro i sindaci che multano. La contessa converrà col sottoscritto che quello che va combattuta è lo sfruttamento della prostituzione. Ma quello siamo tutti d'accordo. Ma no, che c'entra? No, non siete tutti d'accordo, certo, perché siete un branco di puttanieri. Voi dite la prostituzione va bene comunque, e quindi anche quel miserabile lì diceva prima: sì, no, ma io sono sicuro che le ragazze non sono sfruttate. È un momento. Per esempio, Patrizia, tu nella tua lunghissima vita fatta di frequentazione di uomini, sì, mariti, eccetera, eccetera, e sicuramente i tuoi uomini saranno andati a puttane, a prostitute, non c'è sicuramente dubbio. Sicuramente sì, senza dirmelo, naturalmente alle mie spalle, ma sicuramente sì, perché io lo sapessi no, però sicuramente lo immagino. Ma perché tu l'uomo no, poi fa sempre il santo, poi invece dopo sei volti, puoi stare con la donna più bella del mondo, ma Alberto c'è Sordi non andava a prostitute. Un po' perverso, sai. Tu dici, è così? Alberto Sordi non andava a prostitute di sicuro, Alberto Sordi non c'è. Ma che ne sai che... So, ma che ne sai, scusa, chi è che lo dice? Parenzo? Parenzo sì, dice che no, Parenzo che ne sai che faceva Alberto Sordi? Non lo possiamo sapere. Persona che lei ha conosciuto molto bene, ma insomma, Alberto Sordi sicuramente non andava a prostitute, era già pagato da tutte le donne. No, che ma penso avuto di sì. Ma sai, ma delle volte secondo me ci vanno perché vogliono provare qualche brivido nuovo, qualche cosa così, eccetera. Ma poi sì, dopo ma dai, ritornano. Su. Ma non io c'è non niente. Penso. Tu adesso vuol dire la monogamia, sei monogama o no? No, io mai, ma è stata monogama. Io ho sempre avuto due storie insieme. Beh, sono stata amata moltissimo per quello. Adesso ti spiego perché. Sì, dimmi, perché dimmi, quando tu c'hai solo uno, devi stare lì e tutto quanto, e questo qua gli rompi pure le palle, no? Perché gli stai addosso, così, eccetera. Se invece ne hai due, quando quello lì, per esempio, ti dice: senti, io stasera c'ho da fare, ma sì, vai, caro, vai, sei molto liberal, perché vai con l'altro. E perciò a questo punto ti amano, ti adorano, perché li lasci molto liberi e tu ti fai i cavoli tuoi sia con uno che con l'altro. Anche perché capito, io, signora, però, con un uomo solo, sì, nel senso, sì, sai che io sono la testa, il fisico, non ho mai trovato l'ideale. L'ideale l'ho trovato in due che facevano quel mio uomo ideale che amavo io. Beh, siamo al top assoluto. Il mio idolo sta diventando il mio idolo, perché in realtà è la concentrazione del poliamore. Cioè, tu hai sempre avuto due, addirittura tre, mi stai dicendo, no? Due al massimo. Beh, due. No, tre forse ogni tanto per avere così uno sfrizzolo, no? Qualcosa così, perché poi anche le mie storie sono diventate lunghissime. Allora, con uno dopo un po' che ci stavi da 10 anni, con l'altro incominciavi a starci da 7, allora hai capito. Perché poi non mi lasciavano, ma non mi lasciavano mai, mica perché era qua. Non mi lasciavano perché non gli rompevo le palle, perché il segreto, tutto sommato, col pensare bene, è di non rompergli le scatole. Se tu non gliele rompi, lo lasci, quello ti scende. Capito? Io ho fatto tutto sommato sì, con brava, non è male, non è male. Non è male, non c'è dubbio. Sì, ho capito, ma tra di loro non erano gelosi, scusi. Ma non lo sapevano. Uno sapeva e l'altro no, certo. Ah, cioè l'amante sapeva. Saputo, e un altro non ha mai saputo. C'era uno solo che sapeva. Scusami, Patrizia, ma tu adesso hai 72 anni, si può dire, no? Chi se ne frega? No, alle signore non si può ma dire. Ma si può dire, ma chi se ne frega? Ma è una ragazzina, 72 anni. Ma tanto, sai, noi in famiglia abbiamo un'età biologica che non corrisponde all'anagrafica. Se tu compri nuovo il giornale che è uscito ieri, sì, c'è la mia love story con un prete. Sì, come la tua love come story? Come con un prete, scusi? Con un prete, ho avuto una love story con un prete. Che non sapevo anche che fosse un prete. Ah, cioè, quando l'hai saputo, era scusa, sempre vestito di nero e pensavo facesse il becchino, facesse parte alle pompe funebri. Ma no? Quando è che ce l'hai avuta? C'erano delle strane cose, perché lui la domenica spariva nelle feste comandate, era bellissimo, altro che uccelli di rovo. Questo era uno. Ma quando l'hai scoperta sta roba? Eh? Quando l'hai scoperto che era un prete? L'ho scoperto perché, essendo tutte le feste comandate, che spariva, eccetera, un giorno l'ho seguito, dico, ma dove va? E l'ho visto entrare in chiesa. Allora ho detto, ma che persona religiosa, che carino, aspetto un'ora, due ore, non esce mai. Sono entrata in chiesa e l'ho visto sull'altare che stava la benedizione. Ah, ho detto, ah, mascalzone. Però ti voglio dire, in tutto questo, lui aveva non sentiva questa vocazione, questa cosa più di tanto. Difatti io sono stata una specie di... Ma è rimasto prete poi? Perché dopo lui si è spretato, si è sposato, adesso c'ha una moglie e due figli, c'ha 70 anni. Ma com'era a letto? Com'era a letto? Altro che uccelli di rovo. Com'era a letto? E per quello ti ho detto, non era il caso che facesse il prete. Lui amava tutte queste cose, capisci? Si innamorava, e perciò a questo punto è inutile, che è meglio un bravo marito, un bravo padre, che un cattivo prete, no? Scusami un attimo, ma a 72 anni il sesso com'è? Ah, non lo so, guarda, a me non me ne frega niente, siccome non mi sono privata di niente, ho provato tutto. Ormai basta. Oggi come oggi, non me ne frega, guarda, non mi interessa niente, a me mi interessano i miei cani, le cose. Ho appena lasciato uno che mi rompeva le palle, perché con la scusa che la sera io parlo quattro lingue, la cosa, di esercitarsi nelle lingue, mi chiamava alle 11 a mezzanotte, figurati, intanto quello era per sorvegliare se io stavo stessi a casa, così, c'aveva 60 anni, un bellissimo uomo. Mi rompono le palle, perché dopo arrivi a una certa età che tu vuoi gli spazi tuoi, capito? Allora i miei cani, mia figlia quando vuole, perché poi mio figlio se ne va per i cavoli suoi, però quando c'è mi fa piacere che mi frequenti. Ho molto rispetto della libertà degli altri. No, ma ho capito, ma voglio capire una cosa, ma non te ne frega più niente nemmeno del sesso a 70 anni, immagino. No, del sesso non me ne frega niente, ma non è una questione di età, sai, perché lo fai pochissimo, certe 80 anni, figurati. Lo fai pochissimo. Questo no, io sono stata sempre una che non gliene è mai fregato più di tanto, però mi piaceva, sai cosa mi è sempre piaciuto? Cosa? Il corteggiamento. Una volta non sono come quelle di oggi, a me mi piaceva più tutto quello che c'è intorno al sesso. Poi cioè a letto anche, vabbè, a letto dipende, però, io sono una cerebrale, perciò io ho sempre amato col cervello più che col fisico. Però lo potete anche capire poi. Ogni tanto. Senti, ti voglio chiedere una cosa, ma hai letto che Celentano si è lamentato perché dice che a casa sua entrano le persone, Facchinetti vuole addirittura comprarci un arsenale, ma se tu ci avessi un ladro gli sparo nelle palle, mo te lo dico, io guarda, io ho la pistola da 10 anni, non l'ho mai detto a nessuno. Questa è buona, perché non ho bisogno, io non devo andare a fare gli show in giro a fare la contessa pistolera, perché è proprio una cosa che mi sta sulle palle, perché no, è una cosa. Però ti voglio dire, siccome io ho avuto una rapina delle quali mi hanno portato via metà dei miei gioielli, hanno legato il bavagliato alla cameriera, sono arrivati in quattro, si sono arrampicati due volte, uno me lo sono trovato in camera da letto, gli ho corso dietro con il come si chiama, con lo spuntore là del coso nel corridoio, un altro i cani stava col coltellaccio per aprire la vetrata, i cani hanno abbaiato, dopo di ciò ho detto basta, sono andato al poligono, ho imparato a sparare, sparo peggio di Calamity Jane, tu non sai come, bravissima. Però io non li voglio ammazzare, però a sparargli nelle palle e nelle gambe, che così non si arrampicano più, questo sì, perché voi, se voi trovate la sensazione orrenda che cos'è di trovarsi uno in camera da letto, ma quello ci mancherebbe altro, certo. Ma brava, fai bene a sparare, io sono dalla parte fai tua, sparare sempre, ma non ammazzarli, guarda Parenzo, è uguale ammazzarlo no, perché la morte, però a un certo punto, se spari nelle palle non è che... penso che lo Stato, no, io vorrei che lo Stato ci difendesse, che prendessero delle cose per noi, perché vedi i poveri poliziotti, a me fanno molto bene alla polizia le cose, che quelli si ammazzano per arrestarli, il giorno dopo li liberano, perché vengono, no, il nostro paese è diventato la terra di nessuno, perché è pieno di slavi rumeni, a parte che vengono poi sempre in tre, perché uno entra e due aspettano sotto. Allora adesso, scusa, ma che pistola c'hai? Io ho avuto tu? Un'amica l'altro giorno che è stata aggredita da tre, e lei, la madre e la cameriera, tutta la notte le hanno massacrate di botte, perché volevano sapere dove era la cassaforte. La cassaforte non c'era, e allora tu a questo punto non puoi giubbotte. No, è giù botte, dico, quando non trovano la cassaforte è giù botte, ragazzi. Allora io che poi devo stare all'ospedale a far la moribonda piena di tagli di cose, e mi viene il politico a dire poverina, e si fa lo show, ma vattene a fanculo, scusa, sai, adesso eccola ti voglio qua, dire. No, ma ha ragione, giusto, ma vattene a fanculo proprio, che viene là a dire no, ma qui le leggi, le cose... Capisci, cioè... non fanno niente, e vengono i poveretti, stanno lì, pensa a questi poveri vecchietti, queste povere signore massacrati, che non si possono, certo. Perché almeno io reagisco, aspetta, però io sono molto, bisogna, ma che pistola c'hai? Quando tu prendi che pistola c'hai, scusa, devi essere molto freddo, perché tu non puoi lasciarti andare alle esaltazioni così. Patrizia, che pistola c'hai? Io ho una Smith & Wesson 38 Special a tamburo. Ma dove sta? E l'ho presa perché non si inceppa, perché se per caso tu prendi una che si inceppa e spari e fa quell'altro, cioè la pistola t'ammazza, invece questa non si inceppa, è a tamburo e fa un rosone, fa un buco che tu manco te l'immagini, per questo ti dico. Ma dove l'hai provata? Scusa, dove l'hai provata? Dove l'ho trovata? Al porto d'armi, all'armeria. No, dove l'hai provata? Dove l'hai provata? Ma sono stata, ma scusa, al poligono, al poligono, ma l'hai provata al poligono, anche in un bosco, che ne so, liberamente? No, no, sempre al poligono. No, guarda, sparare a bambera non vale la pena, perché tu sai che ci sono le pallottole vaganti, qualche cosa così, no, potevo esercitarmi come le stronze messe. No, io non faccio queste cose, io se ce l'ho sono una persona molto cosciente. Prendile un po' in mano sta pistola, dove sta? Valla a prendere un attimo. Eh? Dove sta sta pistola? Valla a prendere un attimo. Sta qua sul mio letto. La pistola? Pure. Fammela sentire, tun, tun, tun, come pesa, quanto pesa, tun, tun, ma dai, poi senti, mica c'hai gli sguardi a raggi X. No, ma tira fuori, però, però se vedi quinta colonna, guardati, no, quello... ecco, guardami, sabato sera io vado da coso, da come si chiama, a quello dalla vostra parte. Sì, sì, certo, sì, certo. Pietro, sicuramente qualcuno da Belpietro, sì, ecco, ottimo. Vado perché vorrei, visto che adoperano i VIP per sensibilizzare, sì, l'opinione, certo, pubblica, non c'è dubbio, sì, sicuro, sì. Poi non, sì, mi frega niente. Io vorrei sensibilizzare, sì, proprio le persone. La contessa con, sì, la pistola, va bene. No, per fare la contessa con la pistola, proprio no. Però hai capito, di far capire che chi c'ha la pistola, cioè, però se uno anche... entra, tu, se uno entra una pistolettata sulle palle a casa De Blanc, ragazzi. Ma io vorrei vedere te, sai, se uno entra di notte, eccetera, che stai a letto, ti vedi col mitra, ma io col mitra. Oh, questi ti massacrano, ti violentano, ti fanno di tutto, più che sai, io sicuramente l'agnello sacrificale per far piacere a sti stronzi non lo faccio. No, ecco. Andassero pure a fanculo, direi. Ah, ragazzi, ecco, bravo, andassero pure a fanculo, c'hai ragione. Ma è contessa, bravo. Però, scusi, contessa mia, io. No, no, per carità, guarda, io sono un fanculo facile, eh? No, questo l'ho capito, me ne sto senti, rendendo conto. Senta, ma... contessa, per chiudere, lei è molto ricca, sì, ancora? Beh, ma sai, sì, la ricchezza è un optional. Sì, beh, però, insomma, option, vive nel lusso. Puoi essere povero, puoi sentirti ricco non avendo, sì, molti soldi, e molti ricchi sono stronzi, e perciò a questo punto diciamo che non soffro la fame, ecco. Non soffro la fame, bene, certamente. Male, quanti camerieri ha? Quanti maggiordomi ha dentro la casa? Dentro quali la maggiordomi? Ma quali camerieri? Avrai un cameriere, qualcuno di servizio ce l'ha a casa? C'ho una persona fissa, certo, ma tutta la vita ce l'ho avuta, perciò è come una specie di tata, così, che ha fatto la tata a mia figlia e poi è rimasta a casa, perché a me, sai, le persone che poi stanno con, sì, me si stanno talmente bene che non se ne vanno più, perché io sono, t'ho detto, molto libera, sono libera io, voglio essere che gli altri lo siano. Ma perché non si candida in Parlamento, signora De Blanc? Me l'hanno già proposto tante volte, mandati vorrei a fare in culo, li ha mandati a fare in culo. Mio marito era console del Panama, a parte mio padre ambasciatore, ma mio marito era console del Panama, e fecero tutta una riunione, sì, perché volevano che io diventassi Levita Perón dell'America Latina, perché pure sono cubana anche, di due cittadinanze. Sei pure, no, cubana, ma Castro l'hai amato? Odio. Castro ci ha portato via tutte le cose che avevamo a Cuba, ecco, le piantagioni, le cose, ci ha portato, ha nazionalizzato tutto. Ma quello è un pezzo di merda, figura, è stato un pezzo di merda. Beh sì, anche perché se lui avesse nazionalizzato per distribuire, sì, al popolo, certo, vabbè, lo puoi anche capire. Lui ha nazionalizzato, se li ha acchiappati lui, se li ha messo nelle banche svizzere per i cazzi suoi. Questo ti voglio dire. Allora, signor questo Castro, non esiste. Signor Castro, sì, come capito? Facciamo adesso? Comunque, facciamo una grande campagna. Pure Castro. Scusami un attimo, ma io voglio dire, Roma è sporca? Roma è sporca, sorci, spazzatura, cose. Beh, la vedi, che lo devi chiedere a me, mica faccio la spazzina, basta che vai girando, ti accorgi quanto è messa, no? È messa male. Sta Raggi non ha fatto niente, non ha cambiato, ha cambiato. Beh, noi l'avevamo anche votata, sinceramente, ma sai cos'è? Che è una ragazza. È una ragazza, dargli... sì. Come pretendi che una ragazza che arriva in breve tempo, sì, sistema tutto, dopo anni di cose in queste condizioni? Cioè, ma chi voteresti adesso? Tempo. Chi voteresti adesso? Signor Salvini, ti piace, signor Salvini? Salvini mi piace, perché lui anche lui è il fidanzato di una mia amica. La signora Isoardi, sì, certo. Di Elisa, con la quale, dalla quale sono andata molto spesso in televisione, che è una ragazza stupenda. Sì, è molto in gamba. Sì. Avranno un figlio, secondo te? Beh, io spero per loro, se lo vogliono, perché no? Comunque, tu in questo momento voteresti Salvini? Possono adottare un bambino rom, anche volendo, forse. In questo momento... Ma tu ce l'hai con i rom? No, non ce l'ho assolutamente. In questo momento voteresti per Salvini, tu, in questo momento? Ma adesso non lo so, in ogni caso probabilmente sì, sì. Adesso la contessa, come... si potrebbe fare una bella lista, la contessa per Salvini, beh non è male, contessa per Salvini. Noi per sì, noi contessa per Salvini. Io allora ricordati una cosa, io non sono un estremista, né di destra né di sinistra, io sono una persona di centro, perché trovo che con la giusta pacatezza, sì, tutta la cosa, gli estremismi vanno malissimo. Beh, Salvini però non è proprio adatto al moderatismo, diciamo, Va bene, cara contessa, ti abbraccio tantissimo, ti abbraccio. Ma come, già mi lasciate? Ma io come? Stavo parlando così bene con voi, dopo che mi piacevate tanto. E dopo un po', ma noi ci ricollegheremo prima o poi, noi siamo sempre qui ogni giorno. Mi faccio salutare da Giada, aspetta che mi saluta. Chiamami Giada, fammi dare un bacio a Giada. Ciao Parenzo, arrivederci, ciao. Ciao cara contessa, ciao. Ragazzi, la pistola, mi raccomando, con la pistola, mi raccomando. Buonasera a tutti, vi continuerà a seguire, continuate, senti, così, Patrizia, a dire, senti, le cose come stanno, perché noi abbiamo bisogno di persone vere nella vita. Brava Patrizia, pure te. Con tutta questa finzione che c'è in giro, voi siete almeno veri. Giada, sai sparare tu? Ma io, guarda, ti dico, sto andando al poligono, però non assolutamente la pistola di mamma è un po' esagerata, quindi... Ma che esagerata? Ha fatto benissimo, ha fatto. Smith & Wesson, amica mia, dai. Il tipo di pistola è, insomma, non è che si spara così, bisogna saper sparare. Io sono... Ma i proiettili ce l'avete? Sì, ce l'hai, carica. Sì, sì, assolutamente. Però bisogna imparare ad andare al poligono, le armi non si prendono così. Bisogna avere la testa. Soprattutto istituzioni, fate qualcosa per noi. Ciao bella, per voi. Ciao, buona serata. Ciao cara. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Pubblicità. La Zanzara. L'immigrazione come risorsa e potenzialità anche per la crescita economica. Come Partito Democratico proponiamo una legge sul diritto di cittadinanza che includa, oltre al diritto di nazionalità, per chi è nato qui da genitori migranti, e anche il voto amministrativo. Nein. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! La Zanzara. Allora voglio chiedere a Parenzo, hai avuto da tuo padre un'agendina nera con i numeri di telefono che dovevi chiamare? L'hai avuta o no, Parenzo? Devi andare a casa, Parenzo! Lascia il posto alle persone capaci! Allora ragazzi, oggi... Questa si chiama tecnicamente reiterazione del reato. Spiego. Presso il foro competente, che sarà il foro di Roma, su, evidentemente. Il foro competente, dai, il foro competente. L'ufficio legale è stato già allertato. È stato già allertato. Sì. Il 7 marzo alle 10.45 del mattino, lo stilista Alviero Martini, in zona stazione di Milano, via Fabio Filzi, è stato aggredito e rapinato da alcuni stranieri. È stato rapinato in questo modo: è stato avvicinato da tre uomini, derubato del portafogli, di un braccialetto d'oro e di una borsa contenente 20 orologi. E dice a Sala, senti che cosa dice, non è certamente uno di destra, signor Alviero Martini, ma figuriamoci. È incredibile che possa succedere una cosa del genere alle 10.45 del mattino, in una zona della città così centrale e viva. Personalmente alla fine non mi sono fatto nulla, ma chi me lo dice che se non avessi reagito assecondandoli in qualche modo, questi ragazzotti non mi avrebbero fatto del male? Voglio dire questo al sindaco Sala, questo degrado va in qualche modo arginato, fermato. Questa immigrazione disordinata va bloccata a prescindere dall'etnia. Personalmente io non sono in grado di indicare una soluzione, ma questa piaga va fermata. Per i cittadini della città e per le attività commerciali che si ritrovano ormai ostaggio di comunità che non sembrano intenzionate a integrarsi. Allora, è vero, per carità, è successa una cosa gravissima, un signore, però amico mio, 20 orologi, uno... 20 orologi di valore contenuti in una borsa, uno non è che li porta così, certo. Beh, alle 10.45 non è una colpa quello, no, certo, alle 10.45 del mattino, fosse successo la sera sarebbe stato forse più imprudente, diciamo, no? Però dai, vai veloce dentro una macchina, dentro un taxi, no? Cioè, 20 orologi di valore, evidentemente questi ti hanno seguito, sapevano che c'erano questi 20 orologi, Luca da Perugia, vai Luca, vai. Ciao Cruciani, ciao a tutti. Dimmi Luca. Allora, ascoltate una cosa. Dimmi. Io Io è da un po' che sto in casa con la mia nonna, a 80 anni, io voglio vendere la Madonna. Sì. Però non capisco, io vedo la pensione che gli arriva, 5,50, vedo il mese delle bollette, dopo due giorni già gli ha finito lo stipendio. E i nostri grandi politici stanno riuscendo nell'ultimo periodo a farci incazzare con Zingari, con Negri, con tutto quanto. Sì. Ma il vero problema qui, queste persone, no, come cazzo devono fare campa? Perché a me mi sta sorge la voglia che se in me si vede la mia nonna che a metà mese è già senza un euro, certo, e a mettersi in cappuccio in testa e andare a cercare un po' di soldi da qualche parte, mi ci sta a venire la voglia. Noi parliamo di Zingari, noi parliamo di Zingari, di campo profughi, di problema di immigrazione. Il vero problema è che di qui quelli che dovrebbero far sta bene gli italiani, prima gli italiani come dicono loro, agli italiani non gliene frega un cazzo. La mia nonna 80 anni c'ha i calli nelle mani e deve fare ancora la sarta per arrivare a fine mese, il mese delle bollette. Vabbè, adesso allora, amico mio, che possiamo fare per tua nonna? Possiamo fare, invece di fare la colletta per quella puttana, no, che non paga le tasse né niente, fammi una bella colletta per la mia nonna. Ma adesso c'ha ragione, però. Ma che ragione, ma chi se ne frega, dai, su. Giuseppe, bene, dopo facciamo anche la colletta per la puttana. Ma non me ne frega niente, io faccio la colletta per chi mi pare. Prima Susanna e poi tua nonna. Prima Susanna e poi tua nonna. Dai, allora mettiamoci in fila. Ora sto mangiando una frittata buona di porro, però passami tu nonna un attimo. Una frittatina di euro, la mia nonna questo mese ha dovuto pagare il gas, 380 euro. Ma che gas è? Ma che gas è 380 euro al mese? Oh, ma che sei matto? No, non è il mese, è che c'entra un periodo. Te sai bene che le bollette. Ah no, te no, che te lo pagherà lo schiavettino, però. Ma che schiavo? Ma quale schiavo? Lo pago io, le bollette le pago io, che schiavo? No, allora Cruciani, sai bene che non è che il gas arriva ogni mese. Senti Luca, passami tua nonna, dove stai? È un periodo, stai a casa di tua nonna? Eh? Sei a casa di tua nonna adesso? Sì, ce l'ho di qui accanto che mi ha finito di cuocere la frittata ora. Passami tua nonna un attimo. Vabbè, ha detto che vuoi chiacchierare. Nonna, digli un po' come sei stata a fine mese senza soldi. Sì, signora? Senza soldi bisogna tirarli e compra proprio il necessario perché sennò si fa debito. E io debito non lo voglio fare perché dopo molto pago se tutti i mesi sono i soliti soldi e tutti i mesi sono le solite spese. Addirittura fino a un anno fa. Passami un attimo tu nonna che è più interessante. Sì, vieni qua nonna che c'è Cruciani. Vieni qua. Scusa signora, come si chiama lei? Piera. Come si chiama? Piera. Signora Piera, io voglio capire una cosa, ma lei quanto prendete pensione? 500? 580. Quando finiscono sti soldi? Quando finiscono, secondo, io bisogna le faccia durare tutti i mesi a costo di mangiare il pane col pomodoro tutte le sere. Dunque? Bisogna le faccia durare tutto il mese perché io non c'ho nessuno e neanche da dove andare a beccare un soldino oppure telefono a Caio che me ne dà uno. Ma questo nipote qua lavora o no, Luca? Questo nipote lavora, ma lavora part-time e allora non ha da... Ecco, ma lei gli stanno sui coglioni questi immigrati che prendono i soldi dallo Stato o no? A me mi stanno sui coglioni, poracci. Anche loro da qualche parte devono mangiare e devono fare. Però dato che stanno qui e prendono soldi dallo Stato, cioè, vai al cimitero, non ti puoi avvicinare alle lingiere da quante sono sudici. Vai in tutti i posti. Ma perché allora allo Stato non gli fa fare qualcosa di utile? Quello ma può essere, i cittadini sono sporchi. Dove vai è tutto sporco, perché non gli fa guadagnare quei soldi che gli danno? Ecco, e dei signori che stanno in Parlamento, lei, signora Piera, che ne pensa dei signori politici? Io sono una persona ignorante, non posso competere con queste cose, quindi... Però io penso che se guadagnassero meno loro e dassero un pochino di più a me, dormirei meglio la notte e respirerei un pochino meglio. Vabbè, mi passi Luca un attimo, va, che Luca dice che vuole andare a fare le rapine per lei, perché dice che non arriva alla fine del mese. Giuseppe, dimmi. Dice che vuole andare a fare le rapine, ma falla finita questa rapina. Era per dire che di qui vogliono far credere che il problema sono 40.000 zingari, che il problema sono i barconi. Ma chi l'ha detta sta cosa? Allora Giuseppe, qui c'è il problema è un altro. Vedi. Che qui la gente parla di pensioni d'oro, parla di vitalizi, parla di tutto quanto. Non capiscono qual è la realtà. Cioè un mese, quando alla mia nonna gli arrivano i 580 euro di pensione e c'ha 400 euro di bollette, Un mese con 180 euro, chi si campa? Vabbè, magna due frittatine, pane e pane. Ah, cosa frittatine. Ma che gli dici? Pane e pomodoro, pane e pomodoro, pane e formaggio. Pane e formaggio, un po' di aiuto da parte di qualche amico. Dire, ma davvero, perché gli devi dire così? Scherzi, quello che ti volevo dire, che forse mi sono spiegato male, che qui stanno dirando tutti i problemi, ci vogliono far credere. Sì, ma ho capito, perfettamente. Tutta questa gente che sta arrivando. Ciao Luca, ho capito perfettamente. Ciao, ho capito. Ragazzi, un abbraccio. Ciao. Carlo. Saluti. Modena, vai Carlo. Ciao Cruciani, sono dimmi. Carlo da Modena. Dimmi. Senti, volevo commentare quello che ha telefonato, che ha detto che Parenzo è raccomandato. Cioè, io non sono d'accordo perché non lo può sapere e poi non sono neanche offensiva. Però condivido tutto quello che il resto che ha detto. Non è adatto alla radio. Ma chi te l'ha detto? Ma non lo decidi tu? Ma chi lo decide? Ha una brutta voce, è polemico, disturba. È fastidioso, non so neanche tutto come vero, fai tutto a sopportare. Comunque ragazzi, tutto Carlo, come fai a sopportare? Sì, tutto vabbè vero. Carlo, la notizia che viene oggi dalla Liguria è che il TAR della Liguria ha dichiarato illegittimo negare il permesso di soggiorno a un extracomunitario condannato due volte per spaccio. Illegittimo, ho capito. Sì, negare il permesso di soggiorno. Cioè, hanno negato il permesso di soggiorno. Dice, no, vabbè, ma anche se è stato condannato due volte per spaccio, si può anche dare il permesso di soggiorno. Tu ti rendi conto o no? Fermi tutti, fermi. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Ho mangiato una doppia razione di pasta e ceci, ragazzi, flatulenza totale, praticamente ho la camera da letto che è un enorme forno olandese. Ah, ah, che scoregge, ah. Cruciani, io lavoro in Pricewaterhouse e cazzo al cesso ci sta una puzza di merda che sono sicuro che ci sei passato te adesso, sono sicuro cazzo, e non siamo al top per niente. Comunque la Pavlovic per essere una rom ha una voce davvero, davvero arrapante. E io sapevo, la grande zizza catina. Vai, la gomma. Parenzo, tu non sai che cos'è questo piccolo pezzo che ho mandato adesso, grande sizze che tieni, eh? No, questo non lo sai. Beh, è un film che si chiama Concetta Licata. La saga di Concetta Licata. Tu non l'hai mai vista questa saga? No, chiedo scusa. Beh, amico mio, non conosci la vita, cioè non conosci il cinema italiano. Adesso, non conosci il cinema italiano. Non è che tu sia Tullio Chesi, cioè. No, certamente. Quindi, ma è, diciamo, come dire, l'autore, il top del cinema. L'ultimo film che tu hai visto è Giovannone a Coscia Lunga. Ma quando mai? Io vado sempre al cinema. Ma sì, perché offrono gli altri. Pago sempre io. Tu mai visto il portafoglio? Lo conosci tu la storia del cinema hard italiano? La conosci o no? No, la conosci o no? Non la conosco. Mi dispiace, la conosco. Cioè, l'ultima volta che hai visto un film porno, quando è stato? Guardo ogni tanto film erotici. In particolare, sono un grande estimatore del maestro Tinto Brass, che è anche un amico. Quindi a me piace l'erotismo. No, quelli non li guardo. Mi dispiace. Non l'hai mai visto in vita tua? Ma avrò visto alcune scene, ma dopo un po' che vedi, oh, yeah, like this, oh, fuck. Ma dopo un po' cosa vuoi vedere? Basta. Vabbè, vedi, ma non conosci, minuti, no? Tu non conosci ma il maestro Salieri. Non conosci il maestro Salieri. Ti ho detto che io di Salieri conosco Antonio Salieri, quello di Mozart. Però, ragazzi, abbiamo in collegamento qui perché è scoppiato un caso vicino Frosinone. No, abbiamo in collegamento da Budapest proprio lui, il maestro Salieri. Mario, come stai? Buonasera Giuseppe, maestro, tutto bene, grazie. A tutti gli ascoltatori. Grande Mario Salieri, conosciuto da tutti i grandi ascoltatori della Zanzara come uno dei miti del cinema italiano. Ma che fai a Budapest? Da quanti anni stai a Budapest? Lucchino Visconti era. Lucchino Visconti, ma io non lo so, ma vabbè, il grande miti. Di qualcosa a Parenzo, però, perché ti sminuisce. Ma no, ma non sminuisco niente, va benissimo. Ma uno dei grandi miti del cinema italiano. Lucchino Visconti è stato un grande mito del cinema italiano. Fellini. Ma io posso considerare, per quello che mi riguarda, posso adesso... Mario Monicelli, Tornatore, Castellitto, Castellitto, Castellitto, Ma non Salieri, ma ho capito, ma il grande mito del cinema italiano. Vabbè, ragazzi, ecco, ma ognuno ha i suoi miti, no? Io posso avere Salieri come mito del cinema italiano. Ma figuriamoci, va benissimo. Allora, Mario, assomiglia, senti, un po' anche a Facci. Sì, assomiglia un po' a Facci, sì, è vero, di espressioni del viso. Comunque. Anno del 57 di Napoli, non si chiama Mario Salieri, quello è il suo nome d'arte. Senti, Mario, voglio chiederti una cosa, ma è vero che stai girando, vuoi girare o hai già finito di girare questo film che è un remake? Sì, è in lavorazione. La conferma. Dunque, il remake della Shoshara, come si chiamerà? Esattamente, la Shoshara. Ah, così, la Shoshara, ma si può fare? Beh, la Shoshara è un termine che indica una donna proveniente dalla Shosharia. Per cui non c'è nessun problema di questo tipo. Non c'è riferimento al romanzo di Moravia, allora? Ma come no? Ispirato al romanzo di Moravia, con eccezione naturalmente della parte relativa alle marocchinate che tanto hanno creato disturbo. Ecco, che cosa vuoi dire su queste polemiche? Perché addirittura un deputato... Voglio dire quello che ho già ribadito più volte nei social, dove poi la polemica è nata, che il film non racchiude nessuna violenza sessuale e non racchiude nessun riferimento alle marocchinate. Per cui non mi rompete le balle, fatemi fare il mio mestiere. Perché qui abbiamo un deputato della Repubblica, una gentile signorina, tra l'altro anche una bella donna, che si chiama Spila Botte, la quale addirittura ha fatto appello al Ministro della Cultura. E poi, benissimo, senza aver visto neanche il film. Senza aver visto il film, naturalmente, perché dice che è una cosa indegna, un'offesa a tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. E mi sembra che danno anche, dovresti essere anche contento da un certo punto di vista, perché danno un'importanza. Una buona pubblicità, sicuramente. Non c'è dubbio. A questo film, che è La Ciociara, avrà come protagonista, diciamo, il ruolo di Sofia Loren, chi è? Roberta Gemma, benissimo. Gemma, dunque, la conferma, ci sarà questo film in lavorazione, quando finirà questo Roberta film? Roberta Gemma. Guarda, dovremmo finire entro marzo, il film dovrebbe uscire tra giugno e luglio. Senti, di quale film? Dunque, non ci sarà nessun riferimento allo stupro, però sarà assolutamente. Ci sarà nessun riferimento allo stupro. Allora, la storia su che cosa è incentrata? Scusa, spiegami. Ma è lo stesso romanzo di Moravia, ripropone lo stupro solo nella fase finale. C'è uno stupro, allora. Sì, certo. C'è un prologo, c'è una storia che si sviluppa senza c'è una storia, sì, c'è una storia, ma sicuramente è un film di genere pornografico che si sviluppa attraverso i temi tipici della narrativa moraviana. Scusami, critica dei costumi borghesi, importanza dei valori umani, una serie di cose moraviana. Che sono da spunto molto interessante per quello che riguarda la mia narrativa pornografica. Ma scusa, ma guarda che Salieri, se tu vedi un film di Salieri, ti invito a vedere, per esempio, Concetta Ligato o altri ancora. Adesso chiederò di quale film è più orgoglioso il maestro Salieri, per indicarlo anche ai nostri ascoltatori. Tutti li ho visti. Ho visto tutti i film. Sempre l'ultimo, Giuseppe, normalmente. Però ci sarà. Concetta Ligato è molto indietro negli anni, nel 1993. Lo so, è un film. ho messo Salieri su YouTube, però stanno venendo fuori certe cose. Scusami, Mario, ma qual è il film di cui sei più. Ci sarà uno, adesso lascia perdere l'ultimo. Uno di cui sei più orgoglioso. Di tutti questi. No, guarda, normalmente è sempre l'ultimo, davvero, credimi. Comunque, La lunga notte di Abby Taylor, Il portiere di Restrat 16, sono tutti film girati negli ultimi anni che mi hanno dato molte soddisfazioni. Per esempio, c'era uno che mi ricordo, una serie che si chiama Inside Napoli, stupendo. Vuol dire Inside Napoli, addirittura, se no. Addirittura stai parlando dell'88, dell'88. Con Moana Pozzi. Amico mio. Siamo a Cannes, sì. A Cannes. 1988, il Festival di Berlino. Ma certo, ma scusa, Mario Salieri ha girato Moana Pozzi, ma di che stiamo parlando, ragazzi? No, ma per carità, ma di cosa parliamo? Non è che stiamo parlando di pizza e fighi, di una persona che tra l'altro Spike Lee è un coglione, ma di che stiamo parlando? Scusa Davide, però non fare, guarda, ti assicuro che se tu vedi un film di Mario, nei primi 10 minuti, possibile anche che non si scopi, giusto Mario? Anche nella prima mezz'ora, Addirittura, mezz'ora senza scopa. Certo. È uno stile, è un erotismo, altre cose. È un erotismo che si sviluppa attraverso uno stile narrativo, quindi c'è bisogno della narrazione. Sì, quindi lei mi dice che c'è scene pornografiche. Lei quindi mi sta dicendo che c'è quindi un climax, quindi proprio lo spettatore viene portato dentro l'eccitazione. Sì, sono Parenzo, esatto. Ah, ecco, Parenzo, guardi un film, no? Così poi no, guarderò senz'altro, per carità. Meglio. Tu hai mai girato Rocco? Rocco ha iniziato la sua carriera nei miei film. Ecco, cosa mi puoi dire di quest'ultima evoluzione sua? Cioè, finge secondo te questa cosa del ritiro? È un ragazzo molto, è un ragazzo molto intelligente, molto in gamba e sta raccogliendo i frutti di una carriera straordinaria, è un attore conosciuto in tutto il mondo. Ma ogni tanto finge questa storia del ritiro, questa storia che se ne vuole andare, torna, c'ha bisogno. Questo chiedetelo a lui, francamente, io non sono il portavoce di Rocco. Ma no, vabbè, non lo so e non mi interessa saperlo. Comunque è un ragazzo in gamba, sì, è una persona molto capace, valida, che ha avuto un successo straordinario e che giustamente si merita i risultati di questo successo. Senti, ma l'attore hard con cui eri, diciamo, girato più, hai prodotto in maniera più soddisfacente, cioè quello più resistente, quello più dotato, resistente, chi è? Puoi fare un nome? Fammi un nome, dai. Ma guarda, uno l'hai fatto tu stesso, Rocco, ad esempio, insomma, sì. Rocco è sicuramente uno degli attori migliori, sì, del settore, insomma. Tra l'altro è uno degli attori che è nell'industria da circa 30 anni. E dopo Rocco? Facciamo una top 3. Beh, Rocco, Roberto Malone, se vogliamo restare in Italia, insomma, Giorno Francesco Malone. Malcolm, ce ne sono stati diversi sia in Francia che in Italia, Jean-Pierre Armand in Francia. E la pornostar, la femmina? Porno star Céline è Céline, quella che mi ricordo con più piacere, insomma, è stata una partner di tanti successi internazionali come Signora appunto Concetta Ricata o un remake di Dracula. Una volta ha girato addirittura in una chiesa consacrata il signor. Sì, la chiesa consacrata, poi è successo un casino tremendo, annullarono. Lì non sapevo che era consacrata, però attenzione, lì noi noleggiamo la chiesa, era una chiesa di Gioia Vecchia, lo noleggiamo dal parroco della chiesa con un regolare contratto e pensavamo che la chiesa fosse sconsacrata. Lo scoprimmo solo prete, alcuni mesi dopo, che invece era una chiesa consacrata. Ma il prete cosa pensava che avvenisse? Il prete si masturbava dietro di noi mentre giravamo il film. Ma cosa dico? Dice? Quello che dico. Ma cosa sta dicendo? è vero, ragazzi. Dico quello che dicono. Ma il prete vero o il prete quello finto del film? Non ho capito. Il prete non so se fosse vero, a me risulta che fosse anche sposato, devo dire, almeno da quello che ricordo, perché stiamo parlando di un episodio del 97, se non ricordo male, o del 96. Mi pare una gran porcheria. Senti, ma nella tua vita quanti soldi hai guadagnato, Mario? Ma meno di quello che pensi, guarda, perché purtroppo in Italia fino a qualche anno fa siamo stati soggetti a tantissimi sequestri e tantissimi problemi, per cui mi hanno reso la vita davvero molto molto molto difficile, addirittura indagini per associazioni di stampo camorristico durate 2 anni, cose allucinanti. Naturalmente nessun seguito, naturalmente nessuna condanna. Però in Italia non si può lavorare, dici? Ma in Italia non si può lavorare, credimi. Dunque tu sei scappato in Ungheria dove si lavora? No, non ho scappato, io sono venuto in Ungheria 8 anni fa perché qui c'è il crocevia della nostra industria, oramai la nostra industria si sviluppa tra l'Ungheria e la Repubblica Ceca, per cui sono venuto qui perché tutte le attrici del settore sono qui e perché si lavora molto bene. Ma cos'è che ti fa schifo del porno? Cioè, che ci sarà qualcosa che ti fa schifo di questo mondo, no? Che ne so, c'è troppa droga, viagre, cose, cioè ci sarà una cosa droga? Che non lo so, punto interrogativo, cioè non è un'affermazione, dico, c'è una cosa che ti fa schifo del mondo del porno? Ma guarda, in particolare non c'è nulla che a me fa schifo del mondo del porno, insomma. Ci può essere qualcosa che mi fa schifo del mondo in generale, del mondo. Ma non del porno, voglio dire. Hai mai girato un film del porno? Non c'è assolutamente nulla di... Hai mai fatto l'attore? Hai mai provato a fare l'attore in un film? No, mai. Non saresti in grado? Ho fatto qualche partecipazione come attore di recitazione, dico a me, dei piccoli, diciamo, delle piccole interpretazioni. Vabbè, ciao caro Mario, ti saluto, ciao. Carissimo, grazie. Ti saluto. Ciao, arrivederci, buon ciao, lavoro. Buon proseguimento, arrivederci. Buon lavoro anche a lei, maestro. Signor Salieri. Allora, andiamo a Firenze da Vanina, la signora Vanina. Vai. Arrivano intanto messaggi anche da Robert Cannuna di commento sulla signora Céline. Ecco. Beh, ma scusa, ma... Messaggi che non leggerò. Ecco. Ma signora Annuna è un grande estimatore di Salieri, diglielo. Mi ha scritto, insomma... Conosce Salieri, signora Annuna? Conosce benissimo Céline, mi sta ma scrivendo... Ma anche Salieri, anche il maestro Salieri. Adesso sì, immagino di sì, insomma, io non leggo esattamente quello che mi ha scritto il signor Cannuna, che sta ascoltando da Tel Aviv. Vanina però... Firenze, vai... Stima la signora Céline. Dimmi Vanina, dimmi. No, volevo dire semplicemente che avete mandato in onda un uomo terrorizzato dal corpo delle donne. Ma chi sarebbe? Chi sarebbe? Quel signore, non ricordo se si chiama Nunzio Fausto. che ha proposto il binomio tra il dover corteggiare e fingersi innamorati di una donna o il doverle pagare. Ecco, qualcuno insegna a questo signore che esiste il piacere delle donne senza bisogno né di essere pagati né di avere un uomo che finge di amarle. E vabbè, ma ecco, se quello là gli piace pagare, se quello là gli piace pagare, ma gli piacerà pagare. Non è problema di pagare, quello per carità, poi si aprirebbero altri fronti, però visto che l'alternativa e visto che nessuno gli ha opposto niente, è che se non si paga ci si deve, come dire, fingere innamorati nel 2017, francamente sono ma è lui che diceva che diceva così, è lui che diceva così, dai. No, il problema, io ho telefonato semplicemente perché ti ho sentito dire è questa è una cosa, una prospettiva interessante. No, non lo è patetica, però poi per carità, non voglio offendere nessuno, però vabbè. Roberto Milano, vai. Pronto? Niente, Antonio Milano, vai Antonio, vai. Antonio, vai, dimmi, dai, forza. Sì, pronto, sono in linea? Sì, dimmi. Mi pare di sì. Allora, io volevo parlare, per quanto riguarda questa disparità che c'è tra nord e sud. Ancora, che c'è da dire? D'accordo, che c'è da dire? Sì, cioè, dimmi. Bisogna che lo dica. Non lo so, ci ha chiamato. Hai chiamato tu, mica io. Ci sono a volte dei pregiudizi nei confronti dei rom, dicono, no? Ma anche nei confronti dei meridionali. Allora? Io che sono di Napoli, vivo a nord Italia. Sì. E parla, forza. Ho pregiudizi nei miei confronti. No, scusa, non è che parlo come te, c'ho questa parlantino come parli tu. E allora se non parli io, manifestando insomma la realtà che vivo io, capito? Allora non lo so. E qual è che cosa, come si dimostra sta discriminazione, Antonio, per favore, dai. Non si capisce niente, la però, discriminazione amico. Come si te lo spiego io, te lo dimmi, spiego, dai, scusa. Dimmi. Ti faccio un esempio, dice questo è di Napoli, questo vuole fare il furbo, questo è camorrista, questo è, capito meglio? Vabbè, uno tutte cazzate, dai. Antò, ciao, Ivan Treviso, vai, Ivan. Ciao. Dimmi Ivan. Niente, io di biologia mi hanno detto che tu hai dei parenti e io non riesco a trovare un appuntamento veloce qui. Non ho capito, scusami, spiegami. Devo farmi tagliare il prepuzio perché mi fa male a pisciare nel lavandino, mi fa male a scopare quelle poche volte che scopo e mi fa male insomma. Non ho capito, cioè che cosa vuoi devi fare tu? Tagliarti il prepuzio? Sì. Vabbè, vada da un medico. Vai da un medico qualunque, un ambulatorio, che ne so. Ho chiamato, qua ci sono attese di 3 mesi, come faccio in 3 mesi? Ho anche una mezza ragazza. Ma perché chiedi, scusami, hai una mezza ragazza, sì. Dici che hai problemi ad andare in bagno, hai problemi quelle poche volte che scopi, d'accordo, capisco, di testa lei, siamo vicini a te, no, anche parenza, non ce ne frega niente, non me ne frega proprio niente. Però no. Ivan, io ma che cosa ti posso fare? Caso di no, Ivan. Davide, penso che tu non abbia di questi problemi, ma io non li ho, ma mi dispiace per lei, ma non capisco perché chiama qui e non chiama la ASL, però scusi. Ti vorrei segnalare Ivan che c'è. Mi hanno detto che Cruciani c'ha parenti urologi, ho detto, ma sì, ho un parente mio zio urologo, però adesso ha anche dei piccolissimi problemi di salute, non è che opera le persone di cane. Io sto provando varie alternative, ho già provato l'altro. Non puoi chiamarmi per dire raccomandami a tuo zio per tagliarti il prepuzio, anche perché sta a Roma, ti costerebbe un sacco di soldi, ma ci sono un sacco di medici a Treviso. Farmi un giro in Italia, ma mi costa 500 euro l'operazione. Cioè, ma che dobbiamo fare noi? Fatti tagliare sto pisello e basta, no? Ma no. Comunque, ma ragazzi, insomma, ma ti rendi conto che oggi è crollato un ponte sulla A14? Sì, una cosa ed è la vergogna dell'Italia, di un paese assurdo. Un mio amico per 20 secondi l'ha mancato, mi ha chiamato veramente? Adesso. Per 20 secondi. Secondi, per 20 secondi è incazzato nero e noi ci dobbiamo occupare di Ivan, che per carità è una cosa interessante, che si deve far tagliare il prepuzio. Il prepuzio di Ivan e il ponte sulla A14. Tutto finito, tutto dai. Finito. Ciao ragazzi, a domani. Cruciani, parlare in diretta con te è stato eccitante, tanto quanto fare l'amore con Mario. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Devi andare a casa, Parenzo. Lascia il posto alle persone capaci. Radio 24. Libera la voglia di fare.